Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'isola di Arturo, di Elsa Morante. La cena era terminata ormai da un pezzo, sebbene noi ci attardassimo a tavola. Mio padre aveva ancora del vino nel bicchiere e seguitò ancora un poco a scherzare con noi, ma presto se ne stancò. Ogni tanto si stirava le braccia o traeva dei grandi sospiri, che in lui non erano segno di tristezza, ma al contrario di un piacere d'esistere profondo e quasi amaro. A un certo punto fece l'atto di allungare un braccio verso la sposa per attirarla a sé. Ella si levò in fretta e si scostò indietro, dicendo che doveva sparecchiare, e vidi riapparire nei suoi tratti quella paura che sembrava per un poco essersi staccata da lei. Con un'aria spaventata e zelante, mise due piatti uno sull'altro e fece per avviarsi con essi nell'acquaio. Ma mio padre, senza alzarsi dalla sedia, l'afferrò a volo intorno alla vita e, imprigionandola col braccio, la tenne accosto a sé. «Ma dove vai? Sparecchiare!» le disse. «Provvederà domattina la nostra servitù a sparecchiare. Tu sei la signora Gerace, ricordati, e adesso sta per incominciare la nostra prima notte di nozze». Senza osare di battersi, ella guardava mio padre con occhi smarriti. Tremava visibilmente e pareva proprio, in quei suoi grandi capelli, una bestiola selvatica dalla pelliccia nera presa nella tagliola a tradimento. «Hai paura, eh? Hai paura della tua prima notte di nozze!» esclamò mio padre, prorompendo in una risata fresca, libera e senza pietà. «Resta qui, non ti muovere!» e la serrò più forte al proprio fianco, divertendosi del suo spavento. «Hai ragione d'avere paura. Lo sai, quello che succede alle ragazze la loro prima notte di nozze. Ma il peggio, poi, Nunzia, è che assai di rado si incontra un tipo di sposo cattivo come sono io. I soliti sposi sono degli ometti. No, è inutile che tenti di scappare ormai. Non puoi più salvarti, è finita!» Ella, per istinto, aveva incominciato a dibattersi debolmente, quasi illusa davvero di potersene fuggire via. E un simile tentativo disperato fece ridere mio padre ancora di più. «È finita!» egli ripeté con asprezza fanciullesca, tenendola facilmente con un braccio solo come in una morsa. «Non sono più quei tempi che scappavi e ti nascondevi per non incontrarti con me. Non credere che me ne sia scordato, guagliù. Te le farò pagare tutte stanotte!» E in un modo minaccioso e spensierato prese a giocare con i boccoli di lei. Il suo volto s'era corruscato, tradendo tuttavia un'intima, festante malizia. «Già!» dichiarò. «Essa mi rifiutava. Rifiutava di sposare un mio pari, questa pidocchiosa. Le prese perfino da sua madre perché rifiutava un simile partito, proprietario fra l'altro di un castello. E adesso preparati a pagarmele tutte, signora Gerace!» Si udirono rintoccare le ore del campanile ed egli guardò l'orologio al proprio polso. «Ah, sono le 10. È tempo di andarcene a dormire. È notte. Ho sonno, non sia te, ho sonno, non sia te!» E se la stringeva al cuore senza però darle carezze né baci, ma all'opposto quasi maltrattandola e scompigliandole i capelli. Allora la paura, che per tutto il giorno l'aveva appostata, parve scendere su di lei come una nube enorme. In quel momento a me parve di udire un frastuono ritmato, quasi che una cavalcata s'avvicinasse da qualche parte. E con meraviglia mi accorsi che era il mio cuore a battere in quel modo. Mio padre, in una specie di rabbiosa felicità, prese la sposa per il polso e le fece fare un mezzo giro su se stessa. I suoi occhi, che cercavano quelli di lei, avevano uno sguardo duro più ancora del solito. Ma insieme c'era in essi una specie di affermazione impetuosa, incantevole, innocente. Forse pentito, o forse per impietosirla, egli le disse raddolcendo la voce: «Ma non lo vedi quanto sono stanco? È notte, su, andiamo a dormire!» Essa levò su di lui le pupille indifese. «Andiamo, cammina!» le ingiunse egli con asprezza. E lei, ubbidiente, lo seguì. Prima di varcare la soglia, volse indietro il capo a guardare nella mia direzione, ma preso da uno strano sentimento di odio e di rabbia, io distolsi subito le pupille da lei. Ero rimasto fermo in piedi, davanti alla tavola. Quando riguardai la soglia, essi erano già spariti dal corridoio e si udivano i loro passi che salivano insieme la scala. Allora abbassai gli occhi e, al vedere le stoviglie e i bicchieri della cena, i resti delle vivande e del vino, provai un improvviso disgusto. Poi, nel passare davanti alla camera di mio padre, udii, di là dagli usci chiusi, un concitato bisbiglio. Raggiunsi la mia camera quasi di corsa. Provavo d'un tratto il sentimento incomprensibile e acuto di ricevere da qualcuno, che non sapevo tuttavia riconoscere, un'offesa impossibile a vendicarsi, disumana. Mi spogliai in fretta e, mentre impetuosamente mi coricavo, involgendomi nelle coperte fin sopra il capo, mi giunse attraverso le pareti un grido di lei, tenero, stranamente feroce e puerile. Il giorno seguente io mi svegliai alle prime luci. Mio padre e la sposa dormivano ancora. Il tempo era bellissimo. Io me ne andai in giro e tornai a casa, che era già mattino alto. Girai dietro alla casa, dalla parte della cucina, e attraverso i vetri della porta finestra vidi che in cucina c'era lei, sola e intenta a preparare la pasta sul piano sgombro della tavola. Aveva versato dei tuorli in mezzo a un mucchietto di farina e li sbatteva energicamente con le dita. Essa non mi aveva scorto, ed io mi arrestai dietro i vetri, stupito al notare quanto era mutato il suo aspetto dalla sera avanti. Come aveva potuto avvenire, in un intervallo così breve, una trasformazione tanto strana? Essa aveva la stessa maglia rossa del giorno prima, la stessa gonna, le stesse ciabattelle. Era diventata irriconoscibile per me. Tutto ciò che ieri faceva la sua grazia ai miei occhi era svanito dalla sua persona. Anche oggi, seguendo il capriccio di mio padre, essa portava i capelli sciolti, ma i suoi ricci in disordine, che ieri parevano una ghirlanda favolosa, oggi le davano invece un'apparenza scomposta e plebea, e la loro nerezza, a contrasto con il pallore del suo viso, le aggiungeva un che di fosco. Un pallore pesante, pieno di mollezza, aveva scacciato dalle sue guance il colore candido di ieri, e sotto gli occhi le sue orbite, che ieri per la loro delicatezza intatta mi avevano fatto pensare ai petali di un fiore, erano segnate da un alune scuro, guastate. Ogni tanto, mentre lavorava la pasta, Essa si scostava con il braccio e i capelli dalla fronte. In quest'atto levava un poco le palpebre e il suo sguardo, che io ricordavo così bello, si lasciava intravedere velato, animalesco e vile. A rivederla adesso mi vergognavo di aver potuto, il giorno prima, trattarla con tanta confidenza e abbandonarmi fino al punto di dirle i miei segreti. Sulla panca, dimenticato, c'era ancora il mio libro degli eccellenti condottieri, e quella vista rincrudì la mia onta. Con rabbia aprii la porta finestra, e allora finalmente essa mi vide. Una luce di contentezza e di amicizia rischiarò il suo volto e con un dolce sorriso mi disse: «Artù!» Ma io, senza rispondere al suo saluto, la guardai duramente, come quando un estraneo, un inferiore, si permette con noi delle familiarità non accordate. Immediatamente l'espressione confidente e felice cadde dalla sua faccia, il suo sorriso si spense e la vidi guardarmi con un'aria strana. Delusa, interrogativa e selvaggia, ma non tuttavia umiliata e senza ombra di preghiera. Io non le dissi nemmeno una parola e, presogli sulla panca il mio libro, me ne andai. In seguito, durante quella giornata e nei giorni successivi, sfuggì la sua presenza, rinunciando pure alla compagnia di mio padre piuttosto che dividerla con lei. Mio padre, in quei giorni, se la traeva sempre dietro per l'isola. Tutte le ore stavano assieme. Il tempo si manteneva bello e, seguitando le usanze di quando vivevo in solitudine, io per solito uscivo alla mattina con un grosso pezzo di pane e formaggio e non rientravo fino al buio. Quando rientravo, trascuravo di cercare gli sposi e andavo dritto a chiudermi in camera mia. E allora incominciava ad invadermi un sentimento di solitudine quale non avevo mai conosciuto nel passato. Perfino mia madre, la bella canaria d'oro delle favole, che un tempo mi veniva incontro al primo richiamo, adesso non mi soccorreva più. E la peggior cosa era questa, che non per infedeltà sua essa mi mancava. Ero io stesso che d'un tratto avevo perduto ogni volontà di cercarla, negando la sua persona misteriosa. La mia miscredenza, che un tempo aveva risparmiato lei sola, adesso relegava anche lei sottoterra, fra gli altri morti che non sono più niente e non hanno nessuna risposta da dare. Seppure talvolta ero tentato dalla nostalgia di lei, subito mi dicevo crudamente: «Ma che ci pensi a fare? Essa è morta!» Attraversavo così dei momenti difficili, ma anche in simili momenti preferivo tuttavia starmene solo, piuttosto che trovarmi con gli sposi. La sola occasione in cui ci si ritrovava assieme tutti e tre era la sera a cena. La matrigna aveva inaugurato questa novità a casa nostra, che si mangiava ogni sera una cena calda e il fuoco in cucina era acceso a tutte le ore della giornata. Dopo cena andavamo tutti a coricarci. Per solito io li precedevo, raggiungendo in fretta la mia camera, dove, chiuso l'uscio, senza neppure accendere la luce, mi infilavo subito sotto le coperte. Di là non tardavo a udire il suono dei loro passi nel corridoio e il rumore di un uscio che si richiudeva su di loro. E istintivamente mi serravo gli orecchi con i pugni per timore di riudire dalla loro stanza quel grido. Non me ne spiegavo il motivo, ma avrei preferito vedere apparire di fronte a me una bestia feroce piuttosto che riudirlo. Варисама, нужна не сама, Шта гуляй бу, сухну дельхала, Лама шафа, ифтитхак или, Дуби мнельгири мой ильхая, Тар ильхуб, ма биариф мада, Абдель-Амира сар альба, قامت الشوارع دب الحيل اسم الأماني لحن الغزل وسحر الليالي يتجمعوا أحلى عشاق وشهد البوبل دار الحب ما بيعرف مدى عمت الأميرة سارق قلبها بكرة الحلم لو رح ينكسر تبقى حالات وعطر الندى di pomeriggio e come il giorno dell'arrivo ci ritrovammo tutti e tre in camera di mio padre che fumava mezzo sdraiato sul letto secondo la sua consuetudine. Credo che per più di mezz'ora non si udì nessuna parola da noi tre. La matrigna se ne stava quieta su una sedia rispettando forse con qualche apprensione gli umori di mio padre. Fu lui che infine ruppe il silenzio esclamando in accento esasperato: «Basta, non ne posso più di quest'isola. Bisogna che mi decida a cambiare aria!» E gettò in terra una sigaretta appena accesa con una smorfia di disgusto. Già da un paio di giorni egli aveva incominciato a parlare di viaggi, ma aveva lasciato nel vago la data della partenza. Naturalmente era inteso che anche stavolta sarebbe partito solo. La sposa lo avrebbe atteso a Procida, secondo il suo dovere. Essa lo sapeva benissimo, e alla rabbiosa esclamazione di lui abbassò gli occhi senza obiettare niente, e sotto la sua maglietta rossa si avvertiva il moto tranquillo del suo respiro. Mio padre le gettò un'occhiata intinta di racondia insieme di confuso intenerimento, poi ripeté capricciosamente: «Basta, ma che diavolo aspetta a prendere il largo?» Ed ella in quel momento sbatté le palpebre e i loro sguardi si incontrarono. Allora essa mormorò, levando su di lui gli occhi seri: «Nemmeno 15 giorni che siete sposate e già ve ne partite da casa!» Aveva parlato in tono piuttosto di sottomessa deplorazione che di rivolta, ma la sua frase ebbe il potere di scancellare istantaneamente ogni ombra di amicizia dagli occhi di mio padre. «Ebbene, e che c'è di strano?» egli proruppe con dispetto. «Non potrò levarmi la voglia di fare quel che mi pare, anche se sono sposato da meno di 15 giorni. Hai forse paura che l'orco ti mangi se rimani a Procida senza di me?» «Arturo», soggiunse quindi fieramente, «è rimasto a Procida senza di me 1000 volte, non ha mai fatto storia a vedermi partire. Ecco che cosa si guadagna ad intrigarsi con le femmine!» Ella scosse il capo e disse: «Però io, Wilhelm», trastullandosi nervosamente con i propri riccioli. «Tu chi sei? Che cosa pretenderesti tu?» la interruppe mio padre. Al suono di quel nome, Wilhelm, detto da lei, egli aveva avuto una smorfia d'impazienza e anche quel piccolo movimento nervoso di lei con i riccioli pareva infastidirlo. «E lascia stare i tuoi sporchi boccoli», le ingiunse alla fine. «Pensa piuttosto a toglierti dalla mente certe pretese folli, casomai tu ne avessi.» «Io, però, Wilhelm», Che cosa presumi tu, per essere diventata la mia signora? La matrigna lo ascoltava, muta e scontrosa, ma i suoi occhi, inconsapevolmente, esprimevano la dipendenza e la fedeltà. Ricordati, egli riprese accendendosi di maggior violenza ad ogni parola, che sposati o no, io rimango sempre libero di andare e venire quando voglio e non devo rispondere a nessuno di me stesso. Per me non esiste nessun obbligo né dovere. Io sono uno scandalo e non sarà a te, Nennella, che dovrò rendere conto delle mie fantasie. Deve ancora nascere quel grande imperatore che potrà tenere in gabbia Wilhelm Gerace. E se tu, povera bambola pidocchiosa, credi che in conseguenza dello sposalizio debba rimanere attaccato ai tuoi stracci, farai meglio a disingannarti subito. Ma io mica ho parlato di contrastarvi nella vostra volontà. Sarebbe pure peccato mortale. Voi siete il marito mio, v'ho giurato obbedienza, voi siete il capo della casa e comandatemi. Disse la matrigna persuasa. Ma era tanto spaventata dai modi frementi di lui che dai suoi occhi cominciò a sgorgare il pianto. Da che la conoscevo, l'avevo sempre veduta resistere contro la tentazione di piangere. Questa era la prima volta che soccombeva. Vista delle lacrime, mio padre perse anche l'ultimo vestigio di compassione e di indulgenza che poteva rimanergli per lei. Come? Esclamò con una specie di orrore. Saremmo già dunque a questo punto, che tu piangi perché io parto. E la guardava sospettoso, non odiandola, ma addirittura esecrandola, come se d'un tratto ella si fosse tolta una mascherina dalla fronte, mostrando il volto di una ninfa demoniaca che voleva incarcerare Wilhelm Gerace. «Ti ordino di rispondere a questa domanda», le ingiunse con aria torva, quasi l'accusasse di un delitto. «Piangi per il dolore della mia partenza, eh? Per questo piangi!» Ella lo guardò con una singolare audacia, con occhi imbronciati e fieri pur nelle lacrime, e risoluta gli rispose di no. Io non voglio che si facciano pianti per amore mio, non voglio amore, l'ammonì allora mio padre, contraffacendo con avversione la voce nel pronunciare la parola amore. Sappi, guagliona, che io non t'avrei mai sposato se non fossi stato certo di questo, che tu non tenevi sentimento per me. È stato il dovere d'obbedienza a mammeta che t'ha fatto accettare il matrimonio. Tu non mi amavi, per fortuna, e io mi divertivo a vedere mamma e te la comare tua che, credendo di fare le furbe, mi nascondevano questa cosa, mentre che per me invece era l'ideale. Farai benissimo, sposa, a non tenere mai sentimento per me. Io non so che farmene del sentimento delle femmine. Non lo voglio io l'amore vostro. Il mio antenato, che sta pittato qua su questo ritratto, diceva che una femmina è come la lepra, che quando ti si attacca vuole mangiarti tutto intero, brano a brano, e isolarti dall'universo. L'amore delle femmine è un malaugurio. Le femmine non sanno amare. Il mio antenato, guagliore, è un santo che diceva sempre il vero. E d'improvviso mio padre staccò dal muro il ritratto dell'Amalfitano, stringendolo al cuore con ostentazione, e in simile posa da tenore uscì inaspettatamente in una risata chiara e spontanea, come per canzonare la matrigna e l'Amalfitano. Allora, ad un tratto, la matrigna dette una grande scrollata ai capelli e avanzò il mento in aria di insubordinazione e di sfida. «Quello là!» proruppe invasa da uno strano spirito battagliero. «Quello stregone s'era scordato della madre sua, e a parlare così delle femmine! Ma se non era una femmina, lui chi lo faceva?» Qui essa prese a dondolarsi in un'attitudine di tale vanto e orgoglio da apparire quasi sfrontata. «Che lo sanno pure gli ignoranti e pure le crape!» seguitò a dire. «Lo sanno quanto è bella la madre! E di lei nessuno mai se ne scorda, che è il primo amore di tutti, che perfino...» «Sta zitta, brutta diavola scarmigliata!» la interruppe mio padre, e tornando a buttarsi sul letto ebbe una nuova risata, ma fremente e scomposta, assai diversa dalla risata di poc'anzi. «La madre!» ripeté. «L'antenato mio!» dichiarò poi in trionfo rivolto alla matrigna. «Non aveva nessuna madre! Lui era nato da un incontro fra una nube ed un tuono!» «E...» fece la matrigna scettica. «Una nube ed un tuono!» «Sì, per fortuna sua! Così potesse ognuno nascere da un tronco d'albero, da un cratere di Vesuvio, da una pietra focaia, da qualsiasi cosa che non tenesse viscere di femmina!» «Ma le femmine sacrificano tutto per i figli loro!» si provò ancora ad obiettare la matrigna, benché spaurita da quelle invettive. «Basta, ti ho detto, fa silenzio!» la interruppe di nuovo mio padre. «Sacrificano! Vuoi sapere un'importante verità eterna, tu, diavolesse tigre? Impara! Il sacrificio è la sola vera perversione umana. Non mi piace a me il sacrificio. E i sacrifici materni? Oh, per quante maligne femmine uno possa incontrare nella vita, la peggiore di tutte è la propria madre. Questa è un'altra verità eterna!» Qua io tanto ero perplesso che non seppi trattenere un sospiro, ma non credo che mio padre lo udì. «Almeno», egli diceva proseguendo il suo ragionamento, «dalle altre femmine uno può salvarsi, può scoraggiare il loro amore, ma dalla madre chi ti salva? Essa è il vizio della santità. Non si sazia mai di espiare la colpa d'averti fatto, e finché è viva non ti lascia vivere con il suo amore. È un inferno essere amati da chi non ama né la felicità, né la vita, né se stesso, ma soltanto te. E se tu hai voglia di sottrarti a un simile sopruso, a una simile persecuzione, essa ti chiama Giuda. Precisamente tu saresti un traditore, perché ti va di girare per le vie alla conquista dell'universo, mentre che lei vorrebbe tenerti sempre con sé, nella sua dimora di una camera e cucina.» Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.